Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Passiamo un terzo della nostra vita dormendo, quindi sdraiati. Il resto ce lo giochiamo in piedi o seduti. Qual è la vostra posizione preferita? E quale invece quella che vi mando un po' in crisi? Fatecelo sapere, perché oggi, care amiche e cari amici, sistemiamo tutto e tutti: sedie, materassi, cuscini, piedi, gambe, schiena. Che ne dite? Se l'idea vi piace, fatecelo sapere subito. Chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24, ma naturalmente seguiteci su Facebook e su Twitter. E poi ricordate sempre di scaricarmi, scaricate la Nicoletta. In linea con noi al telefono la dottoressa Laura Bertelè, fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa e direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo, autrice di un libro di cui abbiamo parlato spesso, che si intitola Ascolta e guarisci il tuo corpo, Mondadori Editore. Buongiorno dottoressa Bertelè, ben trovata. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. La immagino comodamente seduta alla sua scrivania, ma non sempre le posizioni che assumiamo sono comode. Esatto, io sono comodamente seduta in quanto ho una sedia ergonomica e che mi permette di mantenere una posizione corretta anche quando sono rilassata. E penso che sia molto importante questo, quando una persona sta molte ore seduta, avere una sedia adatta. Iniziamo proprio dalla sedia, cerchiamo di capire come stiamo sedute. Sulla punta della sedia siamo invece ben appoggiati allo schienale. Dottoressa Bertelè, ci dia qualche indicazione sulle tre posizioni. Ecco, è molto importante soprattutto fare attenzione che le ginocchia non siano più alte delle anche del bacino, perché in questo caso la schiena si curva all'indietro. Bisogna piuttosto stare seduti appunto verso la parte anteriore della seduta, cioè in punta della sedia, in modo che i piedi siano ben appoggiati per terra, e l'ideale è avere una sedia adatta, cioè leggermente inclinata dal dietro in avanti verso il basso, come se ci fosse un piano discendente, in modo di avere un appoggio corretto sul bacino. A questo punto vale la pena avere uno schienale rettilineo, ben verticalizzato. La sedia è l'ideale per chi è tanto stanco e vuole riposare. È giusta la poltrona per chi vuole far salotto e chiacchierare. Beh, sederci ci dà sollievo, specie quando siamo stanchi, ma il problema è che stiamo seduti a lungo, per troppe ore, tante, e noi non siamo fatti per restare seduti. Non a caso apparteniamo alla specie Homo erectus, dottoressa Bertelè. Esatto, infatti è molto importante per le persone che stanno tanto tempo sedute alzarsi ogni tanto, anche solo andare alla finestra, fare un bel respiro, ricordarsi di respirare, di camminare per riattivare la circolazione, perché comunque stando seduti sì, la circolazione non è attivata dal basso verso l'alto attraverso i muscoli delle gambe. Infatti quando siamo seduti tante ore, ad esempio in aereo, così le gambe si gonfiano. Ricordatevi di alzarvi e fare basta qualche passo per interrompere la rigidità della posizione. Seduti, in piedi o coricati, questo potete dirmelo voi chiamandoci all'800 24 00 24 o seguendoci su Facebook e su Twitter, ma io vi chiedo di rispondere anche a qual è il luogo in cui amereste sedervi in questo momento, al cospetto di chi non vorreste trovarvi ora sull'attenti e dove vorreste sdraiarvi. Sono già arrivati dei messaggi da Facebook, perché l'avevamo lanciato proprio sulla nostra pagina, e Laura ci scrive che amerebbe sedersi in questo momento di fronte ad un lago su una bella panchina di legno, non vorrebbe essere al cospetto dell'ipocrisia e vorrebbe sdraiarsi sulla sabbia, mentre Claudia ci scrive che vorrebbe sedersi su un'altalena, non vorrebbe trovarsi di fronte sull'attenti a chi nuoce al genere umano e al pianeta, e invece non vorrebbe sdraiarsi su formiche e insetti. Non è facile guardare in faccia la trasformazione, è il mio corpo nella forma e nel colore, è in trasformazione, è una strana sensazione, in un bagno di sudore, è il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Partiamo proprio dalle posizioni. Dottoressa Bertelei, lei ci ha già dato un'indicazione. Cambiate posizione spesso, soprattutto quando siete seduti. La nostra postura però cambia se siamo seduti in piedi o sdraiati. E qual è delle tre la più naturale per noi? E quale invece quella che alla lunga può provocare più problemi e a chi in particolare? Allora, sicuramente la più naturale è il cammino e lo stare in piedi. E poi lo stare sdraiato quando si è molto stanchi. La meno naturale è stare seduti sulle sedie, perché è proprio una posizione che sovraccarica moltissimo tutta la colonna vertebrale e quindi dà molti problemi anche ai bambini se non sono fatte bene le sedie, i seggiolini. L'ideale per i bambini, ad esempio, è che stiano seduti per terra, ecco, e per gli adulti sempre su sedie ben sostenute. Appunto, i divani in cui si sta stravaccati a chiacchierare, come diceva prima lo stacco, sono adatti per quello, solo per rilassarsi e per chiacchierare, ma non per stare presenti e essere anche attenti nella relazione, ad esempio. Nadia ci chiama dalla provincia di Venezia, buongiorno, e poi abbiamo Filippo da Frosinone. Nadia, benvenuta, grazie e buongiorno. Buongiorno a voi e grazie infinite. La mia telefonata è per sostenere e confermare le indicazioni della dottoressa. Io ho 60 anni, ho qualche problemino, diciamo, di dolore alla schiena, qualche difficoltà a volte, un ginocchio che scricca, insomma, sono i malanni dell'età, però amo molto fare vita dinamica. Ecco, dicevo alla vostra, appunto, al centralino, sì, collaboratrice, che in questo periodo ho avuto delle situazioni, diciamo, di fastidio, di dolore, e stando o seduta o in piedi. Bene, un toccasana è quello proprio di cambiare posizione. Io ho visto che per le mie necessità, diciamo, di impegni, devo alzarmi proprio e fare magari due passi. Se sono in piedi, magari qualcuno in coda, che so, per qualche ufficio, se devo stare in piedi per qualche minuto, magari mi muovo, cerco di creare un'armonia dei miei movimenti proprio per ristabilire una postura diversa. Quindi è un toccasana. Muovetevi e cambiate posizione. Cambiare postura fa bene alla schiena, fa bene alle articolazioni. E secondo me fa bene anche alla testa, dottoressa Bertelè. Certo, sì, sì, l'importante è non fissarsi, la rigidità è sempre patologia ovunque e comunque. In ogni situazione. Sì, muoversi un po'. Muoversi. Filippo da Frosinone si è mosso subito chiamando il nostro numero verde, eccolo qua, bello come il sole, buongiorno Filippo. La ringrazio per il complimento. Ma sì, ma secondo me buongiorno. Ci fanno bene, Filippo. Sì, benissimo. Senta, io volevo chiedere questo, poiché frequentemente vedo che le donne più degli uomini, quando stanno sedute, accavallano le gambe anche per motivi di studio, non soltanto per motivi così estetici o comunque di... Ha ragione Filippo, se lei vedesse le mie gambe non sono accavallate, sono addirittura intrecciate. Dottoressa, ecco, Bertelè. Allora, mi domando, se una persona che sta 2 ore, 3 ore con le gambe accavallate a studiare può avere dei riflessi, e che tipo di riflessi sulla schiena? Perché mi risulta, io sono un medico, ma ritengo che le gambe devono essere ben piantate per terra. Dottoressa Bertelè, un suo collega. Sono assolutamente d'accordo con quello che diceva la persona che è intervenuta, perché effettivamente è fondamentale avere i piedi per terra anche dal punto di vista energetico, conviene proprio sempre avere i piedi per terra, poi per scaricare il peso. Le gambe accavallate e intrecciate effettivamente squilibrano il bacino e non vanno bene anche la colonna. Dottoressa Bertelè, proviamo a così pensare alla nostra postura in queste posizioni, sedute, in piedi o sdraiate. Sì. Ci sono dei segnali che il nostro corpo ci manda e lei insegna ad ascoltare il corpo. Tante volte facciamo finta di nulla perché siamo presi, ma proviamo un po' a focalizzare la nostra attenzione. Sì. Ad esempio direi agli ascoltatori di fare attenzione a questo, di provare a appoggiarsi a uno spigolo in piedi in modo di vedere se dove tocchiamo, stando molto vicino allo spigolo, quale parte del nostro corpo tocca lo spigolo, tenendo lo spigolo dietro la schiena. In teoria dovremmo toccare a livello dei calcagni, del sacro, fra le scapole e alla nuca. Se invece abbiamo la testa tendenzialmente in avanti perché siamo abituati a stare curvi, la testa non tocca. Questo ad esempio può essere un piccolo test. Un altro è quello di ruotare il capo e rendersi conto se è libero il movimento, se sentono come una piccola sabbia nella schiena, a livello delle vertebre cervicali, e prendere dei punti di riferimento dietro di noi, in modo di verificare se ruotiamo bene la testa. Lo vediamo in genere quando facciamo la marcia indietro, ma anche stando fermi, in piedi o seduti, possiamo verificare se il nostro collo è mobile in maniera adeguata. Ecco, questi sono dei piccoli, diciamo, piccoli test che possiamo farci quotidianamente nel vedere se siamo in una posizione corretta. Guardiamoci allo specchio, nelle vetrine, per vedere se le spalle sono alla stessa altezza, se la testa è dritta o se camminiamo curvi in avanti. A volte la nostra percezione è scarsa e non ci accorgiamo più di come stiamo proprio. E anche quando siamo seduti, ricordiamo, non accavallare le gambe, tenerle ben, i piedi ben piantati per terra, e occhio alla nostra schiena, dove si appoggia. Esatto, sentire proprio se l'appoggio è omogeneo sullo schienale, stare ben appoggiati allo schienale, se la sedia è adatta, nel senso un po' inclinati in avanti, se no piuttosto conviene stare con la schiena dritta e sulla parte anteriore della sedia. A proposito di sedie, ce n'è una su cui non vorremmo sederci mai, ed è quella del dentista. Sì, ho pensato di farvi soffrire un po', anche a voi viene la pelle d'oca. Beh, d'altronde è proprio questo suono, il ricordo del suono del trapano, che all'idea di incontrare il dentista ci viene già la pelle d'oca. E adesso però le cose sono cambiate, va molto meglio, ma parliamone un po' con la dottoressa Veronica Vismaro, odontoiatra, esperta di rieducazione funzionale del cavo orale e di occlusione. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno dottoressa Bestelè. Buongiorno a lei, dottoressa Vismara. Adesso la sede del dentista non dovrebbe più farci battere i denti, no? Non dovrebbe più farci battere i denti dalla paura come una volta. E anche questo rumore adesso, insomma, con la musica nelle zone, nei gabinetti odontoiatrici, viene un po' coperto, diciamo così. Però, dottoressa Vismara, per evitare, voi lo ripetete spesso, c'è un modo per evitare di frequentarvi sempre meno, no? Ed è quello, sì, di curare l'igiene dentale. Assolutamente, di lavarsi i denti, e questo avviene in piedi, nella postura in piedi, e di passare il filo interdentale, assolutamente, che è una pratica quotidiana che mette al riparo dalle malattie più comuni del cavo orale, la carie e la gengivite. Quindi lavarsi regolarmente e correttamente i denti e passare il filo equivale veramente a farsi un grande regalo. Quindi invece che pensare di battere i denti dal dentista, invece cerchiamo di scoprire se li battiamo quando siamo coricati. Molte persone infatti bruxano. Esatto, il bruxismo è una cosiddetta parafunzione, cioè una funzione che non dovrebbe esserci, perché i denti dovrebbero essere a contatto solo durante la deglutizione. Quindi strofinare i denti in modo attivo, che significa bruxare, o semplicemente serrarli, stringerli, magari durante la notte, è un grande stress per tutto l'apparato stomatognatico, oltre che per i muscoli che sono collegati a tutto l'apparato del cavo orale. Dottoressa Vismara, molti di noi bruxano e non se ne accorgono. Allora, come fare se, ad esempio, non dormiamo accanto ad un partner insonne che veglia su di noi? Allora, quando il partner si sveglia dal bruxismo, vuol dire che stiamo davvero facendo un gran lavoro in bocca. Se non lo sappiamo e magari o il dentista ce lo dice perché si accorge che i denti sono consumati e noi non ne siamo consapevoli, oppure ci sono dei segni, dei sintomi che possiamo avvertire, ad esempio la mattina appena svegli possiamo avvertire una dolorabilità a tutte le mandibole, alle mascelle, addirittura a livello cervicale, oppure anche degli schiocchi e dei rumori di sabbia, come diceva la dottoressa Bertelè, invece che alla schiena, all'articolazione temporomandibolare, quella vicino all'orecchio, o una forma comunque di rigidità generalizzata e di affaticamento, come se avessimo dormito male. Dottoressa, anche quando siamo svegli tendiamo a stringere i denti, a serrarli, è anche un modo di affrontare la vita, ma alla lunga le nostre catene muscolari ne soffrono. I denti comunque si consumano, ma le catene muscolari giustamente soffrono, per cui possono può essere utile per imparare come, alzandosi dalle posizioni sedute, intanto portare l'attenzione alla bocca quando ad esempio siamo in situazioni in cui stiamo molto seduti, come davanti al computer o mentre guidiamo, cioè portare un po' di consapevolezza e poi fare qualche esercizio di relax, di stretching. Proviamo. Allora, ad esempio, la lingua è una grande alleata in questo. Si può provare a portare la lingua tra denti e il labbro e fare tutto un giro della bocca molto lentamente, con l'intenzione proprio di staccare tutta la muscolatura delle labbra e delle guance dalla bocca. Quindi come per proprio umidificare, diciamo, i denti, ma in effetti noi spingiamo con la lingua fuori e questo può dare addirittura una sensazione di stiramento a livello proprio cervicale, se viene fatto in modo corretto, senza dolore, ma si ripete più volte, un esercizio che possiamo fare anche quando siamo alla guida, ad esempio. Assolutamente sì. Non facciamo le linguacce al nostro vicino che magari si arrabbia, però alla guida questo è un esercizio molto molto buono. Quindi un altro? Sì, un altro bel esercizio è con l'aiuto dell'aria, semplicemente gonfiare le guance come quando vogliamo dire che siamo stufi, però in modo settoriale, cioè prima la guancia destra spingendo, poi la guancia sinistra spingendo, poi il labbro superiore spingendo e poi il labbro inferiore spingendo, sempre con l'intenzione di distendere, di questo rilassamento della muscolatura attorno alla bocca. Sono un po' gli stessi esercizi che facciamo quando ci laviamo i denti, ci sciacquiamo la bocca. Bravissima, però con più intenzione e un pochettino più di intensità. E poi semplicemente anche per il bruxismo notturno è molto utile fare degli esercizi di respirazione profonda e di rilassamento prima di addormentarsi, in modo da creare uno stato di quiete, di pace già prima, senza stare troppo davanti al computer prima di dormire. Perché sennò il sonno se ne va. Grazie alla dottoressa Vismara per essere stata con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Io vi ricordo, qual è il luogo in cui amereste sedervi in questo momento? Al cospetto di chi non vorreste trovarvi ora sull'attenti e dove vorreste sdraiarvi? 800 24 00 24. Provate a rispondere a queste domande, ma anche a prendere consapevolezza della vostra postura. In piedi, sdraiati, coricati. Oggi sistemiamo tutte e tutti insieme alla dottoressa Bertelè consigli per scegliere la nostra sedia, il materasso ideale, il cuscino, qual è quello giusto e soprattutto cerchiamo di interpretare e dare una spiegazione a quelle piccole tensioni che avvertiamo durante la giornata e che ci fanno vivere meno bene. In linea con noi abbiamo il professor Roberto Chiesa, direttore della cattedra di chirurgia vascolare all'Università Vita Salute Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, come sta? Io benone, io sono seduta, ho cercato di non attorcigliare le gambe come mio solito, mentre lei... Sono pieno di un grosso intervento sulla chirurgia dell'aorta, quindi è difficile, quindi siamo in piedi da stamattina alle 6:15. Lei quante ore in piedi passa in sala operatoria? In piedi riesco a passare anche 12-14 ore al giorno in piedi. Professore, il chirurgo è sempre concentrato e le tensioni si accumulano a livello non solo mentale ma anche muscolare. Dove picchiano di più? Picchiano soprattutto sulle gambe, picchiano sull'apparato osteomuscolare, cioè sul muscolo e sull'osso e poi sull'apparato vascolare, vene e arterie. Sicuramente una stazione retta così prolungata coinvolge tutti questi apparati. Quindi per la salute del nostro sistema vascolare, qual è quindi vene e arterie, qual è la posizione più salutare? Soprattutto lei che sta tante ore in piedi, cosa fa? Ma sicuramente la posizione più indicata è durante il giorno una posizione il più possibile eretta. Questo è chiaro, non è possibile, molta gente lavora seduta, però il trucco, se così posso dire, è alzarsi ogni tanto, sollevarsi sui talloni in modo da favorire il ritorno del sangue e far muovere, far lavorare un pochettino i muscoli, quindi ogni tanto movimento. E durante il riposo invece, durante le ore a casa, durante le ore notturne, dormire con i piedi, gli arti inferiori un poco sollevati rispetto alla testa, rispetto al cuore, capisce? Così si favorisce il ritorno del sangue in questo modo. Professore, le aspettano tante ore ancora in piedi e concentrato, qual è in questo momento il luogo in cui amerebbe sedersi? Al cospetto di chi non vorrebbe trovarsi ora sull'attente e dove vorrebbe sdraiarsi? Ma vorrei sedermi vicino a lei per fare una bella trasmissione insieme, questo sarebbe bellissimo sicuramente. Sarei onorata. Poi dove vorrei sdraiarmi? Sì. Ma guardi, io sono molto tranquillo, io ho una bellissima casa in Liguria, mi piacerebbe poter fare una bellissima passeggiata sulle mie colline, montagne dietro Genova e stendermi a prendere un po' di sole su un bel prato, questo mi basterebbe. E in piedi? Chi non vorrebbe mettersi al cospetto ora? In piedi? Sì. Ma non lo so. Non ho nessuna negazione per nessuno, quindi massima apertura. Non è un problema. Grazie professor Chiesa per essere stato con noi. Un abbraccio, grazie. Noi andiamo a Piera dalla che ci chiama dalla provincia di Treviso, Bruno da Chieti, Luciana da Trento, 800 24 00 24. Potete naturalmente seguirci su Facebook e su Twitter. La dottoressa Bertelè in linea con noi, pronta anche lei. Piera, buongiorno. È sparita Piera, andiamo a Bruno da Chieti. Buongiorno. Allora io... Chi va l'osto perde il posto, Bruno, ha visto? Prego? Chi va l'osto perde il posto, ha scavalcato Piera. È sempre simpatico. Dunque, dicevo, io come mestiere faccio il camionista. Mm. Sono seduto al volante una media di 7-8 ore al giorno. Sì. Ho una discopatia alla zona lombare e cervicale. Bene. Quali sono i consigli per poter tenere, diciamo così, al meglio il mio fisico visto le mie condizioni? Dottoressa Bertelè, con Bruno rispondiamo a tanti nostri ascoltatori che passano tante ore alla guida. Allora, ecco, innanzitutto è importante che il sedile dell'auto, come dicevo prima a proposito delle sedie, sia un po' più alto dietro. Infatti vendono dei cuscini fatti a cuneo in modo che la persona si sieda e possa avere le ginocchia un po' più basse del bacino, e questo permette un migliore allineamento della schiena. I camionisti in genere hanno un camion, i sedili dei camion sono fatti in maniera più corretta di quelli delle auto. Però è chiaro che stare molte ore affatica tantissimo la regione lombare cervicale. Direi che l'unica cosa è veramente concedersi delle pause, andarsi a bere un caffè a un autogrill, scendere un momentino, fare una passeggiata intorno al mezzo, interrompere la rigidità, perché nelle ore sennò il muscolo va in crampo proprio, e quindi poi schiaccia i dischi, schiaccia i nervi e vengono fuori tutti i disturbi conseguenti. Luciana ci chiama da Trento, buongiorno. Buongiorno, io ti chiamo per un quesito che invece riguarda la mia bimba che ha 10 mesi. Magnifico, allora, la facciamo diventare anche lei ascoltatrice di Essere Benessere, ci occupiamo anche di lei. Purtroppo è al nido, però fino a poco tempo fa vi ascoltava tutte le mattine. Allora, e le chiedo un'informazione, io vedo che la mia piccola quando dorme a volte nel lettone assieme a me si arrampica sui cuscini e dorme sul cuscino quello che usiamo noi per la cervicale, quello fatto un po' ad S. Io volevo chiedere se c'è un cuscino particolarmente indicato o un materasso particolarmente indicato per i bambini che si stanno sviluppando, che sono così in fase di crescita, così piccolini. Grazie Luciana. Dottoressa Bertelè, iniziamo dai piccoli e poi ci occuperemo anche del cuscino che viene insieme al materasso accusato dei nostri mal di schiena, di provocare il nostro mal di schiena. Quale indicazione possiamo dare a Luciana e alle mamme di bambini piccoli che chiedono magari dove sistemare i pupi, su quale cuscino, su quale materasso e in che posizione? Allora, intanto per quanto riguarda il materasso vale sia per i bambini sia per gli adulti che non sia troppo rigido né che si infossi, quindi che sia ad esempio quelli di lattice di ultima generazione, quindi che accetti il peso del corpo e non che il corpo stia sopra la superficie perché è troppo rigido il materasso. Per il cuscino nei bambini un cuscino molto basso di quelli antisoffoco è più che sufficiente, in modo che se anche si gira pancia in giù, che è una posizione sconsigliata per la schiena, però in ogni caso non rischi di soffocare. La posizione nei bambini e anche per gli adulti è che non stiano a pancia in giù, appunto, ma sui fianchi o a pancia in su. Quindi diciamo che per i bambini è questo. Per gli adulti invece è importante che se stanno sui fianchi il cuscino sia più alto del normale. Diciamo che riempia lo spazio fra il collo e la punta della spalla. Dottoressa Bertelè, la postura è anche indicativa di come affrontiamo le emozioni. Tante volte noi facciamo questa relazione emozione-postura, d'altronde nel suo libro Il corpo ci parla, bisogna saperlo ascoltare e cercare un po' di attuare delle piccole correzioni. Esattamente, cioè la cosa importante è proprio ascoltare che quando fa male si sente un dolore, vuol dire che il corpo chiama, richiama l'attenzione su di sé e che bisogna cambiare posizione, ed è un richiamo proprio a un cambiamento, cioè il dolore, la malattia è sempre un richiamo a un cambiamento di posizione e di vita e nel vedere le cose, nell'affrontare la vita, e bisogna, vuol dire che dobbiamo un po' cambiare l'ottica, la visuale, o cambiare effettivamente, concretamente una posizione. Pensavo prima, quando parlava la dottoressa Bismara sul lavarsi i denti, le prime posizioni della mattina sono le più a rischio per la schiena, infatti molte anni del disco emergono a quello, nelle prime movimenti del mattino, ed è molto importante quando ci laviamo di piegare un po' le ginocchia, di non stare rigidi piegati davanti con la schiena. Quindi indicazioni per stare seduti, per stare in piedi, siamo stati a lungo seduti, tra poco ci coricheremo, ma fermiamoci perché vogliamo recuperare un po' di tono. Ci aiuta il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging, questa volta non per suggerirci degli alimenti, ma per suggerirci pesi. Che pesi? Buongiorno dottor Ongaro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Sì, in effetti parliamo sempre di alimentazione, però in realtà non ci dobbiamo mai dimenticare la funzione dell'attività fisica, e credo proprio rispetto ai temi di cui state parlando oggi, insomma, di ricordare anche la bontà di una buona pratica di esercizi con i pesi, che può essere il peso corporeo, il nostro stesso peso, ma può essere anche il sovraccarico dei tipici esercizi con i pesi in palestra. Vorrei ricordare che il mantenimento del tessuto muscolare, del tono e della massa muscolare e della salute dell'osso richiedono un'attività contro resistenza e quindi un certo grado di sollevamento di pesi. In America questo è molto più accettato dalla popolazione generale, dai medici. In Italia un pochino meno, si tende a vedere i pesi sempre come qualcosa per il culturista o l'atleta. In realtà è un modello di attività fisica che tutti noi dovremmo introdurre nello schema settimanale, associandolo ovviamente all'attività aerobica, ma diventa molto importante invecchiando mantenere la forza muscolare, l'autonomia di movimento delle articolazioni e la salute dell'osso, perché tutto sommato nella maggior parte degli anziani il deficit funzionale che osserviamo è quasi sempre da una sarcopenia, cioè da una carenza di muscoli. Dottor Ongaro, se non abbiamo i pesi possiamo utilizzare la bottiglia di plastica, quella d'acqua, per l'acqua, riempirla e usare poi quelle come allenamento? Diciamo che oggi la possibilità di dotarsi anche di qualche piccolo attrezzo a casa è infinita, anche spendendo veramente pochi soldi o addirittura utilizzando, come dire, oggetti che sono presenti nella casa abitualmente. L'unica cosa da ricordare sempre, facciamo attenzione all'esecuzione degli esercizi, quindi io suggerisco sempre che prima si impari una routine di esercizi, magari anche andando in palestra per qualche mese, dopodiché se la persona si sente sufficientemente abile, ha dei piccoli attrezzi a casa o non ha il tempo di continuare con la palestra, allora certamente a casa possiamo avere molte occasioni di sollevare qualche peso in maniera corretta, sfruttando i muscoli che sono appunto più importanti. Che cosa sei venuto a fare? Ma Valeria mi ha sbattuto fuori di casa. Sono disperato, non so più dove andare. Pensavo di venire da te, temporaneamente, temporaneamente. Non se ne parla completamente, no, una stanza degli ospiti io non ce l'ho. Vabbè, compà, sono abituato al gabbiotto del bidello, mi puoi mettere dovunque. E che ti metto, nel balcone ti metto? Figlia, per verità, ma nel balcone no. Mettimi in salotto. No. Mettimi sul divano letto, non ti deluderò. A parte che quello non è un divano letto. Sì. No, quello è un divano divano. Ma no, quello no, è divano letto. No, è divano divano. Divano letto, compà, lo so per certo, te l'ho regalato io. Divano, divano letto, dottoressa Bertelè, a volte i problemi iniziano proprio quando ci corichiamo. Io ho accennato alle gambe, che sono prese da una sorta di frenesia, ma i problemi non si fermano lì. Dottoressa Bertelè, che succede? Dunque, ecco, volevo solo fare una precisazione riguardo i pesi, di farli con molta prudenza, con bene riequilibrati, perché a volte veramente ho visto dei danni anche in atleti da potenziamento muscolare, chiusa parentesi. Sì, infatti il dottor Ongaro ha detto imparateli bene, ecco, non improvvisatevi. Sì, con estrema prudenza e riequilibrio. Comunque, per quanto riguarda lo stare sdraiati, effettivamente ci sono persone che hanno grosse difficoltà a stare sdraiate, ad esempio le persone che hanno problemi alle anche, hanno molta difficoltà a stare sui fianchi e in quel caso è consigliabile avere un cuscino fra le gambe, fra le ginocchia, in modo di tenere i femori e gli arti inferiori paralleli, per esempio. Oppure quello che cui accennava prima il collega, di mettere un rialzo in fondo al letto, anzi meglio ancora sotto il materasso se si hanno le gambe gonfie. Cioè bisogna trovare per ognuno di noi un assestamento nel letto, sempre tenendo conto che non deve essere né troppo morbido, tipo amaca per intenderci, o troppo rigido. Abbiamo in linea con noi Simone che ci chiama da Roma e poi Giovanni da Rovigo, 800 24 00 24, se volete chiamare il nostro numero verde per parlare con la dottoressa Bertelè, avere, lamentarvi un po' dei vostri dolori, della vostra postura e soprattutto trovare consigli. Simone, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletta, è un vero piacere parlare con lei. Dunque, io soffro da tempo immemore della cosiddetta sindrome di gambe senza riposo. Premetto che l'ho ereditata curiosamente da mia madre, non lungi dal dire che sia una malattia ereditaria, questo non lo so, però entrambi ne soffriamo, non ho mai trovato una vera cura ed è una tortura, veramente una tortura che mi assale frequentemente. L'unica soluzione che riesco per prevenire un pochino questa cosa è farmi un automassaggio, ma spesso dura veramente pochi minuti e poi si riprende. Ci sono delle notti che purtroppo sono veramente tristi. Senza riposo. Simone, grazie per il suo intervento. Dottoressa Bertelè, è un problema che interessa persone giovani e meno giovani. Simone è giovane, ha ereditato, dice, questo disturbo dalla sua mamma. Questa frenesia delle gambe spesso non ci fa riposare. Sì, effettivamente è un problema abbastanza diffuso e molto fastidioso. Io penso che la cosa molto importante sia intanto stancare le gambe durante il giorno, quindi camminare, fare le scale, fare grandi passeggiate, in modo di scaricare l'energia, questo nervosismo che c'è nelle gambe, nel movimento, o ballare, ecco, che è molto importante. E poi, prima di andare a letto, fare una doccia tiepida, non dico proprio fredda, ma tiepida, dall'alto verso il basso, e poi senza asciugare le gambe, cioè scuotendole solo un momentino, andare a letto. Ecco, questo in genere rilassa moltissimo i muscoli. C'è un po' il rischio di avere poi le lenzuola un po' bagnate. Quindi prima coricatevi su un telo e poi se no diventa, poi soprattutto adesso che inizia l'inverno. Giovanni, poi dobbiamo appiccicarci al nostro partner. Giovanni da Rovigo, buongiorno. Sì, buongiorno, un piacere, complimenti per la trasmissione. Grazie Giovanni. Io invece volevo sapere, per quanto riguarda la testa, appunto il cuscino, precedentemente avete parlato. Io da 2-3 anni uso quel cuscino che ha il buco al centro e dir la verità, insomma, trovo molto meno indolenziti le cervicali praticamente. Volevo sapere se è una cosa corretta oppure lei comunque oppure no. Giovanni si sente di consigliarcelo. Sì. Allora Giovanni ci consiglia il cuscino con il buco. Dottoressa Bertelè, guarda, a lui i dolori cervicali cuscino, sono spariti. Ecco, ognuno bisogna che si trovi il suo cuscino, perché quando ci sono delle problematiche cervicali bisogna trovare quello proprio più adatto a sé. Io ho avuto vari traumi cervicali, mi trovo benissimo con un cuscino di lattice, di quelli che accolgono la forma. Altri dormono sui cuscini modellati e penso che sia proprio molto importante trovare il proprio cuscino in cui si riesce a dormire comodi e alla mattina ci si alza senza indolenzimento. E questo è quello che ci questo è quello tutto. Che dobbiamo provare la mattina. Se ci sentiamo indolenziti, il collo bloccato, la schiena piena di tensioni, ecco, parte di questo fastidio dobbiamo ricercarlo proprio nel nostro corredo da letto. Esatto, vuol dire che c'è qualcosa da cambiare proprio. Dottoressa Bertelè, grazie per essere stata con noi, è stato un piacere come sempre, ci sentiamo presto, intanto io voglio salutare anche Matteo Comes in regia, la parte tecnica e Laura Vanossi, e per voi che ci avete seguito, io vi invito ad andare sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, perché lì troverete gli esercizi che la nostra Tite Togni ha preparato per voi, una posizione in piedi, una posizione seduta e una posizione sdraiata. Andate, cliccate, scaricate, poi in piedi, seduti, coricati, stravaccati, tornate domani sempre alle 11 per parlare con me. Buona giornata da Nicoletta.